Buongiorno. Che vuol dire? Che il Covid è nottambulo. La nostra mafia che ormai non ha più quella sensibilità. E guai a chi mi vuole impedire di utilizzare la parola ricchione. Posso mentre parlo con una signora abbassarmi la mascherina? No? Se non sta un metro e mezzo, no. Dell'autoritarismo da regime sanitario e mediatico smarchiato con rosso sangue dei nostri diritti naturali e costituzionali. Che cos'è il mandato zero? È un mandato, il primo, che non si conta nella regola dei due mandati. Non ce n'è Covid, non c'è niente. Andata la fascia, pezzo di merda, pezzo di merda, mo te sputo, che fai? Buongiorno, buongiorno un cazzo. Runtime Radio. Ne fa un'altra. A belli de casa di Runtime Radio, www.runtimeradio.it, la web radio geek, quella che tutte le mattine dalle 7 alle 8 vi dà il buongiorno con programmi diversi e assortiti. E questa mattina ci sarebbe dovuto essere Disordinati Informati con Michela, ma come sapete l'altro ieri si è sparata il booster che soltanto ieri sera ha cominciato ad accusare, diciamo, con una certa fiacchitudine e poi i dolori assortiti, ma non ho avuto febbre, non ho avuto niente, quindi questa mattina ho pensato che fosse meglio che si riposasse un pochino, così magari poco lucida, mettersi lì a leggere poteva essere, insomma, deleterio, magari poi uscivano fuori cose che non avremmo voluto sentire. No, scherzo, a parte tutto è meglio che si riprende un pochino, infatti questa mattina si prende anche una mezza giornata, giustamente, e così poi dopo tornerà gagliarda e tosta. Poi giovedì vediamo se torno io, se ci sarà lei. Comunque le due trasmissioni non si mischieranno, questo è una cosa importante, cioè non si rinvertiranno un'altra volta, quindi sempre il martedì Disordinati Informati e sempre il giovedì Buongiorno un cazzo. Quindi probabilmente giovedì ritorno io sempre con la mia trasmissione, dato che questo è un episodio che non era previsto, non ho preparato niente, non c'ho niente, invece giovedì prossimo avrò praticamente la mia bella puntata completamente dedicata al linguaggio, alla disgregazione e a un mio modo di vedere il marketing secondo il mio punto di vista, così magari ci ragioniamo insieme e vediamo se, insomma, possiamo avere un'idea compatibile rispetto a quello che è, insomma, il discorso. Che puzza sta aire, dice Francesco, bucca a tutti, e dice Vincent Valentine, grazie ragazzi, benvenuti. Vi ricordo semplicemente che dopo, alla fine di questo programma, a seguire ci sarà la puntata che verrà pubblicata questa mattina di Scimmioni. Gli Scimmioni non leggono Nietzsche, che è un po' in ritardo rispetto al normale, ma prevalentemente per colpa mia, quindi verrà ovviamente trasmessa e poi immediatamente pubblicata anche in podcast. Volevo dire anche altre cose, ma adesso non mi ricordo. Sì, comunque dicevo, questa mattina una puntata un po' improvvisata che non avevo previsto, però ho anche pensato che probabilmente sarebbe carino, insomma, non lasciare il buco e cercare di parlare fra di noi, magari discutere. Ci sono alcune notiziole, io le butto lì e poi magari le commentiamo insieme o dico quello che penso io, come faccio di solito, però lo facciamo, insomma, anche inframmezzando un po' di musica. Facciamo proprio un programma di intrattenimento questa mattina, sempre col fatto che ce lo dà un po' il culo, no? Poi alla fine sia di svegliarsi che di sentire certe cose, quindi niente, praticamente iniziamo con un primo brano. Non ho neanche preparato un brano di quelli importanti, no? Quelli che mettiamo di solito all'inizio, quindi proprio musica Creative Commons a tutto spiano stamattina, ve la beccate. Runtime Radio non è semplicemente una web radio. Il nostro progetto nasce come realtà di aggregazione di tantissimi programmi nati in podcast. Il podcast è e resterà sempre il nostro core fondamentale. Cerca Runtime Radio su Spreaker.com e troverai tutti i nostri programmi. Runtime Radio, quelli che sono arrivati per primi. Stai ascoltando Runtime Radio, la radio geek. And I've been hung up, I'm too close to the firefight, to your soul. I'm surrounded by your ghost, still taunted by your song. Please don't go, but don't come too. Please don't go, but don't come too close. Close my eyes, take me back home. Close my eyes, take me back to 3 a.m. in the back room. Take your dress off from my fingers through your hair. Wanna feel you all over me, over me. 5 a.m. little sailboat got up and down your waves. Wanna feel you are over me, over me. Before I wake up, I still hear. Close my eyes, take me back. Please don't go, but don't come to. Sailboat Bed, The Devil Music Company. Bella, carina, questa canzone non mi è per niente dispiaciuta, anzi devo dire la verità che mi è abbastanza piaciuta. Mi dicono dalla regia, giustamente, di ricordarvi anche che purtroppo giovedì potrei essere io sotto trauma vaccinale, mentre il cane dà la caccia ai gatti, potrei essere io sotto trauma vaccinale, magari quindi ci sarà proprio l'inversione totale sta settimana, quindi potrebbe esserci Michela, anche se so sotto trauma vaccinale voglio vedere chi è che fa la regia del programma. Però dai ragazzi, insomma, in qualche maniera facciamo, come sapete questa non è un lavoro, è un modo di stare insieme, di farci compagnia e soprattutto insomma di non lasciare mai la radio troppo sguarnita, insomma, che è la cosa che riteniamo che sia più importante. Niente, va bene, e tra l'altro ne approfitto anche per ricordarvi che giovedì sera invece ci sarà la nostra puntata di Quando Eravamo Futuro. Tra l'altro sono molto felice che è tantissimo piaciuta la puntata che abbiamo fatto giovedì scorso, che veramente la gente l'ha apprezzata in un modo incredibile. Ecco, insomma, vi ricordo che giovedì sera dalle 21.30 c'è la nuova puntata di Quando Eravamo Futuro, dedicata agli spot anni 70, anni 80 più che anni 70, perché negli anni 70 c'erano i caroselli, di cui parleremo probabilmente in un prossimo futuro, racconteremo un po' come funzionava e quali sono poi state le pietre miliari, insomma, del carosello. Invece la prima cosa sulla quale voglio puntare la vostra attenzione questa mattina è, diciamo che la notizia in sé è già abbastanza becera, però è più la riflessione che viene anche prima della notizia, perché secondo me, visto un po' i tempi che corrono, piano piano dovremmo andare in giro con le nostre effigi sul braccio, come si faceva un po' di tempo fa in un paese teutonico durante la seconda guerra mondiale, no? Che se tu eri ebreo dovevi andare con la stella gialla sul braccio, e secondo me questa cosa piano piano si riprodurrà praticamente, ma amplificando, però, perché che ne so, cioè, il gay deve andare con l'arcobaleno sul braccio, vabbè, il nero non c'ha bisogno, è nero, quindi, cioè, nel senso, è fortunato da questo punto di vista, ma io gli metterei una cosa sul braccio anche al nero, e poi tutte altre varie forme di discriminazione anche dal punto di vista politico, etico, sociale, morale, insomma sessuale anche un pochino, ecco, intanto mi arriva, grazie, molto gentile, c'è Svetlana che ha portato il caffè, che insomma è sempre gradito. E perché praticamente tutto questo è un po' nell'aria, no? La sentite un po' questa puzza di nazifascismo, questa puzza di merda che si sparge praticamente nell'aere che ci circonda, no? Tutte le persone che vediamo, che guardano le altre persone con uno sguardo. Oggi c'è questa divisione netta tra io so io e voi siete voi, cioè tra il mio pensiero e il tuo pensiero, non c'è più un dibattito, non c'è più una discussione, non c'è più la capacità di accettare determinate cose. Perché se negli anni 70 e 80 era esotico magari vedere un omosessuale, cioè nel senso, comunque non eravamo abituati perché chiaramente non era nella nostra cultura, però nel guardarlo non è che lo schifavamo, capito? Invece oggi c'è questo senso di disprezzo che praticamente ci monta dentro, che poi se proprio ci andiamo a ragionare, se proprio escludiamo un po' la parte più becera di noi, cioè quella che magari ci fa senso vedere un uomo con la barba che si bacia un altro uomo con la barba, quindi magari a qualcuno può dar fastidio questa cosa, oggettivamente che qual è, cioè io, queste persone, no, che si comportano in una certa maniera, che discriminano, che schifano, che disprezzano, io mi farei la domanda: qual è il problema? Cioè, qual è dentro di te la cosa che ti fa suscitare questa cosa? Il Signore, il Dio che si offende? Che si dispiace? Il bambino Gesù che piange perché vede un uomo che fa anche a pettarella con un altro uomo? Io veramente è una cosa che non riesco a capire bene. E la notizia ci giunge, non lo stavamo sentendo proprio questa mattina, insomma, con Michela dall'Olanda, perché pare che insomma c'è una scuola che chiaramente è subito entrata nell'occhio del ciclone, indagini penali immediatamente scattate, perché chiaramente voi dovete capire che l'Olanda è un paese che sì, adesso ha un grosso rigurgito conservatore, però insomma è stato il paese in Europa più di tanti altri, insomma, che ha portato modernità, no, da questo punto di vista, ha portato grossi cambiamenti, ha portato l'apertura, la capacità di non discriminare, no, di non anzi di portare alla normalità un principio che è quello ovviamente delle diversità sessuali, dell'orientamento, no? E questa scuola invece che ha fatto? Praticamente impone di dichiarare la propria omosessualità, cioè non si può, cioè assolutamente, per stare all'interno di questa chiesa, di questa scuola, bisogna assolutamente dichiarare. E si parla, insomma, di gente, alunni, ma anche professori, che praticamente sono chiusi dentro stanze fino a che non fanno il loro coming out, e addirittura ci sono praticamente richieste a colleghi, altri professori, a colleghi, di dichiarare se sono a conoscenza dell'appartenenza sessuale degli altri colleghi. Insomma, diciamo sta cosa, cosa vogliamo commentare questa questione, a parte che vi siete tutti andati a dormire, però io intanto mi bevo il caffè, eh. Ragionate su questa cosa se avete qualcosa da dire. Ariechime, scusate, stavo a bere il caffè perché c'avevo proprio bisogno. E Michela ci dice, è anche un paese con una forte presenza di estremismi di destra. Sì, ma è una cosa abbastanza recente. E mi ricordo, e tu ti ricorderai, Michela, che quando facevamo di tutto un podcast, facemmo quella famosa intervista a Ciccio Reddy, altro podcaster italiano, siciliano, che viveva in Olanda, dove lui raccontava il fatto che in Olanda c'era una totale normalizzazione dell'omosessualità, e anche quando tu andavi a fare i colloqui di lavoro e dichiaravi, magari, cioè nel senso, ti chiedevano quali erano le tue ambizioni, cosa volevi costruire e via dicendo, lui per esempio parlava del fatto che avrebbe voluto gli sarebbe piaciuto prendere un appartamento per andare a vivere col suo compagno, e per loro era totalmente normale come cosa. Ma già allora c'era una destra crescente in Olanda, cioè nonostante tutto quello che è acquisito per cultura in Olanda non viene quasi mai revisionato, no? Quindi non c'è questo pericolo immediato, no? nel vedere l'Olanda che fa un cambiamento radicale, no? L'Olanda negli anni 70, ragazzi, negli anni 60 era un altro pianeta, cioè era proprio l'avvenerismo da questo punto di vista, eh? Cioè dal punto di vista della dei concetti di libertà sessuale, e insomma lo sappiamo, no? L'Olanda è sempre stato un esempio da questo punto di vista, e lo è ancora oggi, soltanto che ovviamente oggi c'è questo grande ritorno al fascismo, no? Cioè nel senso a queste idee così preponderanti, dove religione e estremismi di destra insomma si mischiano con questa merda, no? Che poi alla fine è il frutto, cioè quello che viene fuori è proprio il risultato, è proprio questo, cioè il vedere un paese che non sei abituato a vedere in una certa determinata maniera, che sta completamente cambiando da questo punto di vista. E questa situazione di questo istituto scolastico, che chiaramente adesso è, ribadisco, nell'occhio del ciclone anche dal punto di vista proprio strettamente legale, quindi i responsabili sono sotto accusa e le accuse sono anche di livello penale, vedere appunto un istituto scolastico che impone a studenti e dipendenti di dichiarare esplicitamente la propria omosessualità è veramente un segno dei tempi, un campanello d'allarme, se mai ce ne fosse bisogno, che si aggiunge ai milioni di campanelli d'allarme che stiamo vedendo appunto negli ultimi tempi in questo nostro fottuto maledetto mondo, che proprio non ne vuole sapere di essere decente, un po' più decente di così, e ha questa grande voglia di ritornare indietro. www.runtimeradio.it. Il mattino all'ora in podcast torna live con una nuova programmazione. Tre appuntamenti settimanali per parlare di attualità, cinema, giochi, fumetti o anche solo per stare in compagnia prima che la giornata cominci. In onda su www.runtimeradio.it o in differita su Spreaker o su YouTube. Il mattino all'ora in podcast. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 7 alle ore 8. Sempre e solo su Runtime Radio. We'll be right back. Vabbè, questa manco la dita s'annuncio perché fa un po' schifo, anche se è un pancarello simpatico, però dal punto di vista loro della qualità della produzione, insomma, fa un po' schifo, dai, diciamoci la verità. E vabbè, ci piacciono anche le cose che fanno schifo, tutto sommato. E ritorniamo, giustamente, io ho chiesto in chat cosa ne pensate. Francesco mi scrive, intanto salutiamo anche Walter e DJ Joker che sono ovviamente si sono aggregati, salutiamo ovviamente DJ Joker, ricordo Revolve Radio, la radio cugina, che poi tra l'altro informaci Davide di quello che sta succedendo, perché so che vi state buttando anche sugli stream su Twitch, insomma, che sicuramente ha il suo perché oggi dal punto di vista generazionale. Francesco giustamente dice, ma che dobbiamo pensare, scusa, c'hai ragione Francesco, che dobbiamo pensare, c'è poco da pensare, però che ne so, magari sei d'accordo, che ne so, magari c'è qualcuno di voi che è d'accordo e più prima di bestemmiarlo è giusto che possa esprimere magari le proprie considerazioni, no? Perché poi insomma ci sta che uno possa essere d'accordo. E che pensare, se sono arrivati a fare tanto prima di essere fermati, vuol dire che c'è un sottobosco molto pesante a dispetto. Ma sì, è interessante questo punto di vista, perché ce lo dice Michele giustamente, perché in effetti dice, vabbè, ma questi se sono arrivati. Però secondo me sai che c'è, che quando succede una cosa di questo livello, lì per lì sei spiazzato, c'hai F4 basito, fino a che ovviamente magari non si presentano proprio le situazioni quelle più gravi. Ecco, ad esempio si faceva menzione al fatto del tizio che è stato chiuso dentro, ragazzi, sono stati chiusi dentro la stanza fino a che non facevano praticamente la loro dichiarazione, che poi tra l'altro non si tratta di dover necessariamente dire di avere una relazione omosessuale o di avere un compagno barra compagna barra compagno, ma bisognava comunque dire se c'era un'attrazione sessuale verso il proprio sesso o un orientamento sessuale diverso, indipendentemente dal fatto che questo procedimento psicologico fosse completato, no? Quindi era anche una forzatura, cioè nel senso non era detto che questi ragazzi avevano già preso consapevolezza o coscienza, volevano semplicemente, loro dovevano comunque dichiarare se guardando un proprio compagno provava attrazione rispetto che al sesso opposto, ad esempio, tanto per farvi un attimo un esempio di quello che era la situazione. Quindi diciamo è veramente è anche un po' sottile la cosa, cioè nel senso lì per lì non te rendi neanche conto, anche perché c'è tutto un procedimento sotto, cioè tutta una come posso dire un ritardo di comunicazione su questa cosa che è anche ovvio, perché dovete considerare un ragazzo che torna a casa e che deve dire di aver subito dalla scuola questa cosa perché lui è in odore di omosessualità e quindi deve prima affrontare il discorso con i genitori e poi affrontare il discorso della discriminazione. Qui c'è proprio uno scavalcamento di un processo che chiaramente fa schifo, dai, diciamoci la verità, c'è poco da dire su sta cosa, fa veramente schifo. Io, se non abbiamo altro da dire in merito, e mi pare che non abbiamo altro da dire, anche giustamente, perché come giustamente dice Francesco, che c'è, che volemo da dire, io passerei a un'altra cosa importante che mi ha fatto riflettere molto tra ieri e oggi, perché il Papa è preoccupato, ragazzi. Il Papa, sapete, insomma, che il nostro caro amico Papa, al quale noi tutti vogliamo bene, Francesco, con questo accento esotico che ricorda momenti di socialismo sudamericano, però ricordiamoci sempre che il Papa ha collaborato con il regime, insomma, fascio olandese, argentino, quindi insomma non ce lo dimentichiamo. Comunque il Papa è preoccupato perché praticamente l'Italia in particolare, quindi ce l'ha proprio con l'Italia, tra l'altro dicendo la nostra patria nel suo discorso, quindi glielo deve aver scritto qualcuno, tipo che ne so, la Meloni ad esempio, e lui lo ha letto così, perché tanto oramai è rincoglionito, un vecchio rincoglionito. Mi piace parlare così del Papa, perché insomma in teoria il Papa dovrebbe essere una figura però è rincoglionito, insomma, parlando della nostra patria, dice è preoccupato per l'inverno demografico, che sicuramente può essere un problema, ma è un problema tra l'altro visto dal punto di vista sbagliato, perché se è vero che gli italiani fanno sempre meno figli e la popolazione si sta invecchiando sempre di più, dobbiamo permettere all'immigrazione ad esempio di sostituirci, perché no? Cioè, no? Integrare ovviamente una popolazione in maniera tale che ci sia un livello di crescita demografica dal punto di vista delle nuove generazioni, perché poi alla fine, diciamoci la verità, a noi che, cioè, quello che ci preoccupa è che poi alla fine tutti sti vecchi ci staranno sul gobbone quando ovviamente magari il sistema non sarà in grado di sostenerli, perché quello è più il problema, non è solo una questione religiosa, perché ma bisogna fare i figli perché sennò sempre il Dio si arrabbia e il nostro bambino Gesù piange come prima, è più proprio anche una questione politico economica, perché questo è chiaramente un problema, è un segno dei tempi, no? Più il benessere, più aumenta l'età insomma di vita praticamente della popolazione, meno figli si fanno e maggiore è l'invecchiamento medio complessivo di una nazione come l'Italia, che chiaramente questo problema prima o poi dovrà veramente porselo, perché noi chiudiamo le frontiere, che schifo, però poi alla fine giustamente non siamo più in grado di sostenere noi stessi, che siamo diventati molto vecchi. E il Papa dice giustamente che è dispiaciuto, è proprio preoccupato, cioè gli dispiace proprio, se c'ha un dolore dentro, un po' come le emorroidi praticamente, cioè questa cosa, questo fastidio che prova dentro il suo animo, perché dice che sempre più coppie giovani non fanno figli, o al massimo ne fanno uno, perché non è che devi fare un figlio, ne devi fare 4-5, no? Perché però il Papa si dimentica due cose fondamentali: uno, che probabilmente le famiglie in un periodo come questo, in particolare in questi anni, non in un periodo come questo, perché questo è un problema che prescinde anche dal Covid, magari non stanno economicamente così bene da dover sostenere famiglie particolarmente numerose, come fanno tutte le famiglie neocatecumenali. Io ne ho conosciuta una che aveva 6 figli, aveva dato dei nomi a sti figli veramente genoflessa, crocifisso, incoronato, corona di spine, cioè proprio cose fuori dal testo, dalla grazia di Dio. Insomma, Papa, se tu però sei preoccupato perché la gente magari non ce la fa, no? Perché non c'è un problema anche economico, prendi tutto l'oro che c'hai dentro alla saccoscia del Vaticano de merda e cominci a distribuirlo per le popolazioni che vogliono fare tanti figli, hanno tanta voglia di fare tanti figli, però non c'hanno magari i soldi. E anche questa politica, insomma, del dover fare per forza tanti figli, ci porta anche a un ulteriore ragionamento, che è quello che alla fine, a forza di andare in Africa o magari nelle realtà geografiche più particolari a dire che bisogna fare i figli perché il contraccettivo è peccato, noi da 4 miliardi e mezzo in 20 anni siamo diventati 9 miliardi e mezzo. E questo oggettivamente a Dio gli deve interessare sta cosa, cioè non è che può essere solo preoccupato del fatto che l'amore significa riprocreazione, ma la riprocreazione non serve a niente se continuiamo a crescere e siamo in un pianeta che stiamo devastando e che fra 30 anni non ci potrà più sostenere, perché questo è un problema di fondo. E questo il Papa non ne parla di sta cazzata, capito? No, lui pensa solo al fatto che bisogna fare i figli, perché se no, se usi il preservativo e te fai una pippa è peccato. Insomma, ragazzi, Papa, fai un po' pace col cervello, no? Perché io penso che sia importante fare la pace col cervello, è una cosa proprio intrinseca, cioè qualcosa che dovrebbe aiutarti a andare avanti, insomma. Un altro po' di musica. Finalmente incontré aquello che buscava quando menos lo esperava. Finalmente descubrí que las líneas de la mano no significan nada. Que la casualidad es más grande que el deseo. Que ya sé la verdad, que la vida no es un sueño. tienes que decidir, pues no hay nada decidido, que no es fácil conducir si no sabes el camino. Finalmente me di cuenta que caminas o revientas. Finalmente voy de frente y no aparto la mirada. Questi sono i Ram Rom con Finalmente, che so se, finalmente, d'altronde insomma lo spagnolo e l'italiano sono abbastanza simili, quindi ho dato un'occhialata al microfono e mi sono spaccato il naso, ma va bene, ce la posso fare. Purtroppo mi sono scordato di configurare bene il microfono, quindi lo sta molto molto appiccication, però vabbè, dai ragazzi, io direi che ci ascoltiamo lo spot delle orazioni e torniamo immediatamente, perché c'ho da leggere le cose che avete scritto. Da una costola imbruttita di OGM arriva le orazioni della sera. Commentiamo assieme a voi i fatti della giornata appena trascorsa. Quali fatti? La cronaca, ma non solo. Potremmo commentare cose successe, piccoli spaccati di vita vissuta da tutti quelli che si troveranno da queste parti. Quindi soprattutto da voi. Sì, perché l'idea è quella che voi siate parte integrante di questo format. Condividete i vostri audio, scriveteci in tempo reale sul nostro gruppo Telegram Dirette Runtime o dateci la disponibilità a partecipare in diretta e verrete coinvolti. Le orazioni della sera vi dà appuntamento martedì, mercoledì e giovedì dalle 20 alle 20:30 per mandarvi di traverso la cena. E quindi non ve le dimenticate, questa sera dalle ore 8 alle ore 8:30, quindi dalle 20 alle 20:30 ovviamente torna alle orazioni della sera, così come tutti quanti gli altri giorni della settimana, ossia il martedì, mercoledì e giovedì, ricordatelo sempre che è importante. Walter ci dice: il Papa ormai parla con Salvini e Meloni, direi che se c'erano dubbi ce li siamo tolti. Sì sì, ma infatti è preoccupato per l'arrivo dell'inverno demografico, scusate, ossia l'arrivo degli estranei, dice Francesco. Sì, infatti io ho scritto: l'inverno demografico sta arrivando. E DJ Joker dice: vabbè, il Papa oramai sembra che faccia comizi di partito, apre una pagina a caso del libro del catechismo e ci fa l'Angelus. Sì sì, in effetti a volte sì. Mi ha fatto ridere questa cosa perché mi è venuta proprio l'immagine di lui che si alza dal letto tutto vecchio, un fracichito, rincoglionito, e cosa ti vuoi dire oggi? Non so cosa. Prendo questa pagina qui e legge cose a caso, insomma, che fa sempre piacere. Questo Papa, che molti definiscono ancora progressista, dice Walter, e lui, progressista illuminato, ce l'ha sempre avuto a morte con la contraccezione. Beh, ma è sempre un Papa, mo per quanto possa essere progressista e illuminato, sempre un papa deve, secondo me. Allora, intanto guardatevi la serie televisiva The Sky, che adesso non ricordo come si chiama, anzi le due stagioni poi, no? Dio, come si chiama? Non mi ricordo. Quindi dopo, se mi viene in mente, ve lo suggerisco. Guardate, perché è figo, no? Vede un papa, cioè, sarebbe figo una volta, cioè, un papa, no? Che nel concilio, praticamente, quando durante le lezioni, no? Sì, io sono assolutamente penitente, la religione, Dio, dobbiamo patria, famiglia, e tutti lo votano, e poi quando va lì, a un certo punto, il primo discorso che fa, raga, ma il papa, no? A che cazzo serve? Cioè, è lì scandalo, capito? Cioè, il più grande rivoluzionario del papa è il papa che va lì a di vabbè, ram rom, sono sincari e rubano il rame nelle memorie del PC. Infatti lo sai che, Francesco, tu ci scherzi, ma in realtà dentro il brano musicale c'è un virus che scardina il rame dai nostri PC e lo trasmette via telematica ai ram rom. Sì, esatto. Vabbè, The Young Pop, bravo, esatto, grazie, buon Walter, va visto, ragazzi, perché è veramente molto di rottura come tipo di opera, soprattutto dal punto di vista televisivo, insomma, no? Comunque io volevo far notare due cose importanti. Una l'abbiamo detto anche ieri sera in OGM, che potete tranquillamente trovare già nei feed, quindi scaricatela, ascoltatela, dove c'ero anch'io per sostituire Marco, che si è preso una settimana di ferie perché è talmente faticoso per lui fare OGM, ma se vede che stava a Ostia, questa la sappiamo noi. Vorrei far notare, come abbiamo detto, insomma, che il capitalismo, insomma, richiede dei sacrifici, ragazzi. Il capitalismo, cioè, noi vogliamo essere dei capitalisti, richiede dei sacrifici. I sacrifici nostri, naturalmente, perché questo. E quindi, insomma, c'è questa tendenza a dire: ma sì, ma ammalatevi tutti, sti cazzi, piuttosto di pesare sulle casse, insomma, dei finanziamenti arrivati dall'Europa, che servono alle banche. Una volta ne parlerò di questa cosa, perché cercando un po' di camuffare, perché ne ho parlato una volta e mia moglie si è incazzata, perché alla fine noi abbiamo subito un ricatto. Cioè, sapete che noi abbiamo subito un ricatto dalla banca, bisogna dirlo, poi ne parleremo, troverò il modo per raccontarlo in maniera che non, che poi non ci vengano a levare subito tutti i fidi all'istante, perché sai, lo possono fare, no? Le possono fare un richiamo immediato. E poi l'altra cosa che mi pone, insomma, un po' l'attenzione, è il fatto che tutte le persone che vivono all'estero e che magari non si sono organizzati per tempo, perché magari sono riusciti a organizzarsi all'ultimo e che vorrebbero tornare magari in Italia dopo non si sa quanto tempo per passare il proprio tempo, magari le feste con le proprie famiglie, potrebbero avere dei problemi, perché migliaia di voli sono seriamente a rischio e sono stati già cancellati per il rientro dall'Italia. Soprattutto Ryanair sta cancellando voli a rotta di collo, ma come ho detto io a mia moglie, io anche se pago 200 euro di più un biglietto aereo, io comunque su Ryanair non ci metterò mai più piede in generale, perché è una compagnia discriminatoria, razzista, presieduta da un ubriacone irlandese che odia gli italiani in particolare. Quindi, insomma, io proprio mi rifiuto, soprattutto per il modo in cui vengono trasportate le persone e vengono anche considerate. Dici sì, vabbè, ma tu vuoi viaggiare a 20 euro? E questi sono cazzi tua, no? Tra l'altro, non so se vi ricordate, si parlava di una volta che per aumentare lo spazio di capienza delle persone, di mettere praticamente questi sedili semi quasi in piedi, praticamente. Poi non si è mai capito se sta cosa era una leggenda metropolitana o meno. Comunque, migliaia di voli rischiano di cancellazione. Tra l'altro, questa cosa mi ha colpito, perché proprio ieri sera, lo dico tranquillamente, mi ha chiamato Arturino Mazzei, nostro amico, ascoltatore oramai da tantissimo tempo, persona che ha contribuito tantissimo al tecnicamente anche a Runtime Radio, mettendoci a disposizione diversi strumenti, dei Surface per la regia automatica e per la regia manuale, insomma. Quindi alla fine devo dire, una persona che c'è sempre stata molto molto vicina, mi ha telefonato dicendo che forse quasi probabilmente dal 31 al 2 sarebbe riuscito a tornare in Italia, sempre che chiaramente non gli cancellavano il volo. Quindi vedete che poi alla fine questo è un problema che può sembrare scemo, noi lo vediamo magari dall'esterno, perché a un certo punto abbiamo deciso, oh, ragazzi, tanto dove andiamo in questo periodo, stiamo sempre a casa, che famo prima, no? Che stiamo meglio. E invece poi alla fine questo problema anche persone che magari sono vicine a noi ce l'hanno, e quindi io volevo proprio mandare la mia solidarietà, no? Proprio a tutte quelle persone che tutto sommato magari dopo tanto tempo col Covid, le preoccupazioni, magari qualche parente che se n'è anche andato per colpa di questo maledetto virus e via dicendo, che magari si trovano lontano e che vorrebbero tornare, e anche in un momento in cui erano riusciti in qualche maniera ad organizzarsi con le proprie famiglie che vivono all'estero, con il proprio lavoro, con i propri impegni, con qualsiasi cosa, e poi magari si trovano adesso in questa ondata di infezione che chiaramente sta portando tantissimi problemi. Abbiamo visto, insomma, milioni di cancellazioni per le vacanze durante Natale e Capodanno. Questo è un momento veramente tosto, però diamo i soldi alle banche, che è importante, perché senza le banche non si sostiene l'economia. Le banche, che sono quelle che questi soldi poi li fanno sparire, che vanno in deficit, che fanno le bancherotte. Io mi viene da ridere quando tu c'è un'istituzione che campa. Allora, io ho il negozio di scarpe, devo comprare le scarpe per venderle. Se compro troppe scarpe e non ne vendo abbastanza, giustamente vado in deficit, vado in fallimento. Ma una banca che in realtà vende soldi, cioè nel senso che prima li prende da te e poi casomai li ridistribuisce, cioè che comunque c'ha i tuoi soldi, cioè ti dice: no, purtroppo mi dispiace, siamo falliti perché abbiamo comprato troppe scarpe. Io è una cosa che, ragazzi, non riesco proprio a concepirlo. E sti cazzo di governi liberisti, no, che vanno a sostituire quei governi che tutti dicevano: ah, ma che schifo il governo Conte, oh, ma che è sta roba, e poi alla fine comunque quello era un governo che ci ha aiutato e sostenuto anche economicamente, anche bypassando le banche, anche fermando i finanziamenti. E invece no, qui morite tutti tranquilli, state tutti, ammalatevi tutti piuttosto, però dechiude ovviamente tutto l'ambaradam che ovviamente non può essere chiuso. Vabbè, va, raga, famo quest'ultima pausetta e poi ci salutiamo. Ma questo è Igor Pumfonia, attenzione, nome importante, mai sentito in vita mia, però vabbè, qualcuno l'avrà conosciuto. E la canzone si chiama Desiré, chiaramente, insomma, penso che se ne capito che si chiama Desiré, ed è sempre uno dei brani decenti che insomma ci stanno nella libreria. Devo dire che stamattina, essendo poi tutto un po' la riproduzione casuale, diciamo, cioè la playlist del software di regia, ovviamente viene elaborata secondo dei precetti che io programmo all'interno del sistema, e poi lui ovviamente dispone secondo quello che ho programmato. Gli dico cosa deve andare, cosa non deve andare, quante volte ci devono essere gli spot rispetto alle canzoni o i jingle e via dicendo. E poi tra l'altro mi sono reso conto che c'avevo la base aperta, quindi vabbè, l'avete sentito un po' di merda, vabbè, dai, sti cazzi, tanto ne posso fare tutto tutto così un po' sul semplice monte. E insomma, stamattina ci ha detto bene quei brani, dai, diciamoci la verità, un pochino ci ha detto bene, perché tutti i brani, a parte il brano punk, insomma, che potrebbe non essere stato magari di vostro gradimento. Comunque, giustamente, The Young Pope e The New Pope era la serie televisiva di cui stavamo parlando, di Sorrentino, me lo ricorda giustamente Walter Sbano. E Francesco dice: il povero Sorrentino sta prendendo le pizze con il nuovo, a mio parere, bellissimo film, quello La mano di Dio, non mi ricordo neanche come si chiama, quindi diccelo Francesco magari che mi aiuti. Prima lo criticano perché fa i film troppo estetici e manieristici, poi una volta che fa un film asciutto gli rompono il cazzo che non è un film alla Sorrentino. Critici, fateci pace col cervello. Ma questo perché i critici, così come i politici, subiscono la fase del momento. Cioè, il momento è che qualcuno deve rompere il cazzo. Cioè, se tu fai una cosa su Twitter, qualcuno deve dire che non va bene, su Facebook qualcuno deve dire che non fa schifo. Cioè, l'abbiamo visto insomma con Zero Calcare, no? Cioè, il pretesto, cioè, oramai il mondo è spaccato in due, cioè quelli che devono criticare comunque, perché i social amplificano questo tipo di procedimento, no? questa enfatizzano, diciamo, questa cosa. E poi ci sono quelli che magari, vabbè, sono fan e quindi sono i fanboy, che tu gli dici vabbè, però c'è questa cosa, no, non è vero, tu chi ti paga? Perché è così, insomma, che funziona oggi nel mondo della comunicazione, dell'interazione, che è totalmente filtrata dai social media. Poi la gente la incontri nei bar e a malapena c'hanno il coraggio di dire. Allora, e abbiamo anche accennato ieri sera nella parte finale di OGM del lancio finalmente del James Webb Telescope, che è il più grande e potente e incommensurabile telescopio mai costruito dall'uomo, che è stato parcheggiato in orbita alta sul nostro pianeta e che da adesso in poi riuscirà a dare agli astrofisici agli astronomi tutto quello che vogliono. Perché qual è la particolarità del web? Il web è praticamente un telescopio in grado di fotografare aree dello spazio miliardi di anni luce più lontano di quanto ovviamente non sia riuscito a fare Hubble, che tra l'altro sta ovviamente passando, diciamo, a miglior vita piano piano, insomma, comincia ad avere i segni del proprio tempo. E fotografare lo spazio a miliardi di anni luce ancora più lontano, che cosa significa? Significa poter guardare ancora più lontano nel tempo e andare ad investigare se tutto ciò che stiamo teorizzando sulla formazione dell'universo è compatibile con quella che è la realtà delle cose. Quindi fotografando, voi sapete che fotografando in lontananza in realtà stiamo fotografando indietro nel tempo, perché la luce ci mette il suo tempo ad arrivare da noi. Se noi fotografiamo ovviamente un'area a miliardi di anni luce da noi, significa che quello che noi stiamo vedendo adesso è qualcosa che è successo un miliardo di anni fa, ad esempio. E vedere come si è creato l'universo, come si è addensato, quanto era densa tutto l'universo denso di energia e plasma, e quanto poi ovviamente si è dissipata questa forza, questa energia, fino a creare ovviamente dei gas. I gas hanno creato le nebulose hanno creato i sistemi stellari, le galassie e poi i pianeti e via dicendo, insomma. Quindi vedere se tutto quello che noi teorizziamo, diciamo, sulla formazione dell'universo è comunque compatibile con la realtà. E chiaramente questo è molto affascinante, ragazzi. Io sono un grande appassionato, voi lo sapete, e penso che nessuna generazione come questa generazione qui di astronomi e astrofisici, quella insomma che da 20 anni a questa parte sta lavorando a esplorare, a sondare il cosmo, diciamo, sta vivendo un momento meraviglioso, perché mai come in questi ultimi 20 anni abbiamo avuto la possibilità di vedere in maniera sempre più concreta e più dettagliata quello che è ovviamente intorno a noi. E questa cosa è figa, cioè non c'è niente da fare. Mo a noi ci farà incazzare perché James Webb molestava le donne, e quindi sto benedetto telescopio si doveva chiamare Santa Maria de Capavetere. Possiamo imprecare sul fatto che tutti i miliardi di dollari che sono stati necessari per costruire il telescopio avrebbero potuto sfamare i bambini del mondo. Però, ragazzi, la conoscenza è un punto fondamentale per l'evoluzione dell'uomo, e non è solo la conoscenza in termini medici, cioè ho scoperto una nuova medicina che curerà questa malattia, ma conoscere quello che è al di fuori da noi e vedere quelle che sono le nostre origini aiuta a comprendere ancora di più molti meccanismi che ci aiuteranno a sviluppare ulteriori tecnologie, ulteriori migliorie del nostro genere umano, sempre che ovviamente nel frattempo non ci autodistruggiamo, così come sapete, insomma, che probabilmente succederà, perché questo è un po' il nostro andazzo, diciamo. E questo è una cosa che a me mi affascina terribilmente. Vediamo cosa scrive. Allora, secondo me sto telescopio se lo inculano gli Space Rom, potrebbe anche essere, però non ci stanno ancora gli Space Rom. Gli Space Rom, che sono gli amici dei RAM Rom, giustamente, che sono quelli che si mangiano le memorie praticamente del computer, e prima o poi qualcosa del genere succederà. Però, ragazzi, è figo, io non vedo l'ora di vedere la prima foto del James Telescope, del James Webb Telescope, che prima o poi, insomma, ci faranno vedere. Tra l'altro, come dicevo, oggi questo è un periodo fantastico, abbiamo mandato una sonda che ha toccato l'atmosfera del Sole facendo delle foto incredibili della nostra stella, che noi non avremmo mai potuto neanche immaginare tempo fa. Quindi tutto quello che noi abbiamo visualizzato, concepito, teorizzato, in realtà poi si sta manifestando in foto dettagliate di immagini, spettrografie, in tutto quello che, insomma, alla fine aiuta a capire, a farci dire oh, non ci avevamo, è vero che non è che non ci avevamo capito un cazzo, ci avevamo capito, insomma, qualcosa ci avevamo capito. E poi vabbè, ovviamente la sonda è svampata, perché giustamente poi dopo, cioè, la potenza e la forza del Sole dal punto di vista dell'energia e del calore, insomma, questo ha fatto. Ora, insomma, Venere, Marte, abbiamo diverse sonde su Marte, ragazzi, che stanno mappando il pianeta rosso, che tra l'altro è affascinante. Avete visto che l'atmosfera di Marte, sì, è rarefatta, è strana, c'è questo coloriccio un po' rossiccio che è dovuto un po' dalla Terra, un po' dal tipo di spettro luminoso che filtra tramite l'atmosfera. Però avete visto che i colori su Marte sono invertiti, il tramonto è azzurro, è una cosa bellissima. Io quando ho visto il tramonto azzurro di Marte mi sono venuti in mente quei film di fantascienza che vediamo negli anni 60 e 70, che praticamente immaginavano l'esoticità di altri mondi, no? Diciamo, ma perché un altro mondo ci deve avere il cielo da un altro colore? E invece abbiamo visto, insomma, che queste cose sono così, insomma, sono vere e sono anche belle, giustamente. Ieri leggevo le solite polemiche a cazzo secondo cui i miliardi spesi per realizzarlo potevano fare cose migliori. Beh, quello che ti ho detto prima io, cioè, io non l'ho letto, ma immagino, insomma, che qualcuno possa aver detto lo volevo dire in OGM, ma me ne sono poi dimenticato. Sì, vabbè, ma ieri sera è una puntata un po' atipica di OGM, quindi alla fine abbiamo cercato, insomma, di essere quello che siamo. Allora, ragazzi, io direi che per oggi possa bastare, no? Che dite? E subito dopo, immediatamente dopo alla mia, a questa trasmissione, a questo Buongiorno un Cazzo, potrete ascoltare Gli Scimmioni Non Leggono Nietzsche, l'ultima puntata di Simona Ortolani dedicata alla luce, e dopo, insomma, poi andrà avanti tutta quanta la programmazione giornaliera fino a questa sera alle ore 20, dove Walter Sbano tornerà con Le Orazioni della Sera fino alle 20:30, 21, quello che sarà, e poi dopo ci rivediamo domani direttamente alle 7 di mattina, dalle 7 alle 8 con Leo Varghion, con Il Mattino a Loro in Podcast, dove torneremo a parlare di Libri Game, dopo aver finito, insomma, la brava Brandy, insomma, che ha salvato il drago con questa, diciamo, questo finale un po' a sorpresa, diciamo così. E vediamo, perché c'è il sondaggio, se andate su Diretta Runtime c'è il sondaggio di Leo Varghion che vi chiede quale dei tre libri che ha suggerito volete iniziare domani. Detto questo, non so se altro devo dire, potrebbero venirmi in mente altre mille cose, ma in questo momento non mi vengono perché la gola sta dicendo fermate. E giovedì sera, ore 21:30, invece c'è Quando Eravamo Futuro. Detto questo, insomma, ragazzi, buona giornata a tutti e ci vediamo alla prossima occasione. Singing, make way for tomorrow. The sun is bringing a new day tomorrow. Don't let the clouds get you down. Show me a smile, not a frown. Stand up and win, turn about. Don't give in, let's give up to the blues. Just refuse to surrender. Buongiorno a tutti e benvenuti agli